la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. La famiglia di Nazareth. Angelus, 28 dicembre 2014. Il messaggio che proviene dalla Santa Famiglia è anzitutto un messaggio di fede. Nella vita familiare di Maria e Giuseppe, Dio è veramente al centro e lo è nella persona di Gesù. Per questo la famiglia di Nazareth è santa. Perché? Perché è centrata su Gesù. Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, possiedono un'energia che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra l'esperienza della Santa Famiglia, ad esempio dell'evento drammatico della fuga in Egitto, una dura prova. Il bambino Gesù, con sua madre Maria e con San Giuseppe, sono un'icona familiare semplice ma tanto luminosa. La luce che essa irradia è luce di misericordia e di salvezza per il mondo intero, luce di verità per ogni uomo, per la famiglia umana e per le singole famiglie. Questa luce che viene dalla Santa Famiglia ci incoraggia ad offrire il calore umano in quelle situazioni familiari in cui per vari motivi manca la pace, manca l'armonia, manca il perdono. La nostra concreta solidarietà non venga meno, specialmente nei confronti delle famiglie che stanno vivendo situazioni più difficili per le malattie, la mancanza di lavoro, le discriminazioni, la necessità di emigrare. E qui ci fermiamo un po' e in silenzio preghiamo per tutte queste famiglie in difficoltà, siano difficoltà di malattia, mancanza di lavoro, discriminazione, necessità di emigrare, sia necessità di non capirsi e anche di disunione. Le orme di Maria e Giuseppe, omelia 24 dicembre 2017. Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene, ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari. Sono espulsi dalla loro terra. In molti casi questa partenza è carica di speranza, carica di futuro. In molti altri questa partenza ha un nome solo: sopravvivenza. Sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente. Maria e Giuseppe, per i quali non c'era posto, sono i primi ad abbracciare colui che viene a dare a tutti noi il documento di cittadinanza. Colui che nella sua povertà e piccolezza denuncia e manifesta che il vero potere e l'autentica libertà sono quelli che onorano e soccorrono la fragilità del più debole. Una vera famiglia umana. Udienza generale, 25 marzo 2015. L'Arcangelo Gabriele visita l'umile ragazza di Nazaret e le annuncia che concepirà e partorirà il Figlio di Dio. Con questo annuncio il Signore illumina e rafforza la fede di Maria, come poi farà anche per il suo sposo Giuseppe, affinché Gesù possa nascere in una famiglia umana. Questo è molto bello. Ci mostra quanto profondamente il mistero dell'incarnazione, così come Dio l'ha voluto, comprenda non soltanto il concepimento nel grembo della madre, ma anche l'accoglienza in una vera famiglia. Il legame tra Chiesa e famiglia è sacro e inviolabile. La Chiesa come madre non abbandona mai la famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata, neppure quando cade nel peccato oppure si allontana dalla Chiesa. Sempre farà di tutto per cercare di curarla e di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla con il Signore. Sostenuta e animata dalla grazia di Dio, la Chiesa potrà essere ancora più impegnata e ancora più unita nella testimonianza della verità dell'amore di Dio e della sua misericordia per le famiglie del mondo, nessuna esclusa, sia dentro che fuori dell'ovile. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, Edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.